Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Vabbè, comunque il cameraman dice che non stiamo insieme. A me sta cosa fa incazzare perché non è vero che non stiamo insieme. Facciamo cose che chi non sta insieme non fa. Ma non è vero invece. Non è che ci sono delle tabelle con su scritto tutto quello che si può fare e non si può fare, se sei una coppia o non sei una coppia, eccetera. Vabbè, però noi siamo la non coppia, capito? Ho capito, però le persone che non stanno insieme non vanno alla sagra delle mongolfiere. Ma sì che lo fanno, no, ma fidati che c'è gente che... Non fanno cotto e vloggato. Quello magari è vero. Cosa c'entra? C'entra! Ma secondo te se non stiamo insieme cosa siamo? Te l'ho detto. E che discorso è? Cioè, allora, perché adesso 2 anni fa io ti ho detto... Mettiamoci in pausa e stiamo trombamici. Sì. E comunque, ma i trombamici possono anche avere altri trombamici, invece noi non abbiamo altri trombamici. Vabbè, spero. Ma è la vecchiaia. Che io non ho altri trombamici, tu non lo so. Ma io non sono sicuro, perché dici comunque. Cosa? Non sei sicuro che... Beh, dietro questa parola trombamico si spalanca un universo. È una parola usata in senso dispregiativo, è qualcosa che sembra appartenere soltanto alle persone che non hanno una tenuta morale, una regola di vita. Il trombamico, che orrore, sono le persone che si vedono soltanto per fare sesso. Trombamico in realtà è una sintesi di due parole, dell'amico e della persona con cui trombi, quindi con cui hai rapporti sessuali. Diciamo che normalmente la parte femminile tende a privilegiare la parte amico, vede soltanto in piena luce la parte amico, la parte maschile in realtà ama se stesso, ripetere continuamente, con quella persona ci vado solo per far l'amore. Il trombamico, che nasce da qualche anno ormai che se ne parla, un termine vecchio, un termine ormai desueto, non è un termine che appartiene al gergo giovanilista, che ne userà ben altri, capito? Però ha avuto una sua evoluzione. Oggi si parla di trombamici con persone che hanno 30, 35 anni, anche 40 anni. Diciamo, il trombamico oggi viene definito in maniera più edulcorata, è una persona con cui esco, ci stiamo frequentando. Ecco, dietro il ci stiamo frequentando si ripete lo stesso schema. Due persone che stanno assieme con due idee diverse, con due finalità diverse probabilmente. L'una pensa che è semplicemente un periodo di rodaggio, un periodo di lavorio ai fianchi. L'altro pensa che comunque finché va, finché dura fa verdura, finché la cosa va, va bene. Quando si mette in crisi questo sistema? Primo, quando uno dei due comincia a dire l'altro, ma io ti amo, per me sei qualcosa di esclusivo. E a questo punto si spalancano delle voragini, uno o corrisponde o scappa via o si spaventa. O come nel caso di cui vogliamo parlare, che vogliamo definire il terreno, non parliamo di trombamico in generale, parliamo di un certo tipo di esito della trombamicizia. Quando tra i due trombamici succede che si genera un figlio, e si genera un figlio cosa succede? Non è così semplice, non è che dice ma ce ne sbarazziamo oppure ce lo teniamo, no, il figlio oggi è un valore. Oggi della stessa generazione di trombamici le donne fanno salti mortali per trovare qualcuno che le porti allo stato di gravidanza, quindi non si rinuncia a questo bene, ma continua ad essere una coppia di trombamici con un figlio. E cosa accade in questo momento? Beh, ve lo diciamo fra un po', 800 24 0024, per quelli tra voi trombamici che in realtà si sono resi conto che sono una famiglia. Melog. Cronache meridiane. Ma secondo voi esistono delle dosi da non superare per non andare incontro a degli effetti collaterali indesiderati? Insomma, per non coinvolgere il cuore? Tesoro, amore, sono qui. Quanto siamo stati bene insieme questo mese. Ci siamo visti così tanto, 4 volte a settimana. A proposito, ti volevo ricordare che ho già lasciato lo spazzolino in bagno, così la prossima volta se me lo dimentico per dormire qui non ho alcun problema. E poi mi raccomando, sabato c'è il compleanno della migliore amica. Ricordati che viene anche mia sorella, per cui vestiti bene. E non dire le parolacce. E poi, per quanto riguarda la settimana bianca, ho già prenotato. Sì, ma non mi t'appiglio, te l'avevo detto, in quel bel resort, amore. Io e te, sono i soliti, avvicinati, che bello. Anche questa puntata finisce qui. Mi mi raccomando. Questa è la classica deriva che la tromba amica diventa peggio di una moglie dopo 20 anni di matrimonio. Comincia a imporre i suoi tempi, le sue ritualità, le sue abitudini, i suoi vizi, le sue incapacità o le sue iperfacoltà di definire la giornata. E cosa accade? Accade perché normalmente oggi, al di là di quello che si sbracciano a dire i seguaci di Adinolfi, che bisogna difendere la famiglia tradizionale, come idea è un'idea astratta, è una rappresentazione, come il medioevo fantastico e come le feste che si fanno in piazza con i costumi medievali. Oggi la famiglia si è andata a ricostruire in altri sistemi, in altri modi, e nasce da una tromba amicizia, come una volta nasceva da un fidanzamento in casa. Nasce una tromba amicizia quando si dice: cosa fai? Frequento una persona, esco con una persona, anche se a dirle è un quarantenne, un 45enne. Si tratta di tromba amicizia in un'idea però in realtà molto ambigua, perché di altro si tratta. Oggi lo definiremo come la tromba amicizia in realtà va a sfociare nel nuovo modello di assemblaggio familiare, che è tutta un'altra cosa rispetto a quello che voi pensavate. È una famiglia in cui le persone magari non vivono nemmeno nella stessa casa, ma sono famiglie, perché alla fine si vogliono bene, hanno qualcosa in comune, hanno qualcosa che li unisce, ma non lo ammettono. Perché? Perché forse ammetterlo fa parte del passato. Daniel, buongiorno. Daniel. Ecco. Buongiorno. Spegni radio, spegni tutto. Sì, spento tutto, a posto. Nicoletti, sono d'accordo, ma parzialmente. Dimmi il tuo parere. Perché... Gentile ascoltatore. Allora, io sono sposato da 30 anni, quindi... E quindi che vuoi, ormai il tromba amico sei stato 30 anni più fa. No, io invece direi che più tromba amici di così si muore, nel senso che abbiamo un discreto numero di figli, quindi poi dopo abbiamo allargato anche la nostra famiglia ad altre esigenze. Tipo? Direi che sono le altre esigenze? Quali sono le altre esigenze? Abbiamo fatto degli affidi. Ah, beh, siete una famiglia tradizionale. Abbiamo allargato la famiglia, come dice Papa Francesco nell'Amoris Laetitia, dice: la famiglia non deve essere chiusa a se stessa, ma deve essere fatta per essere allargata. Ho capito. Quindi abbiamo proprio portato a compimento questi ultimi insegnamenti del Papa, del nostro grande Papa. Ho capito, ma tu ti sei inserito in una trasmissione che parla di altro argomento per fare testimonianza di fede. No, parlo proprio della famiglia Ma non c'entra una mazza, scusami tesoro, ma non c'entra nulla, sto parlando del tromba amico. Tu stai parlando di una giusta e encomiabile maniera di vivere tradizionalmente la famiglia. E va bene, mica ti dico che fai male. Ognuno, se vivi felice e siete contenti, siete un ottimo esempio. Ma sto parlando di qualcosa che accade nel mondo in cui le persone non necessariamente fanno questo progetto di sposare una persona per 30 anni, di fare tanti figli, di affidarne altri. Semplicemente si cominciano a stare assieme, si frequentano, fanno delle cose, non ammettono nemmeno a loro stessi che in realtà sono già un nucleo familiare. Poi viene un figlio e quando viene il figlio, da tromba amici diventano una famiglia, e lì comincia il problema. Grazie Daniel, però un'altra volta dillo prima, quando vuoi fare il tuo bel santino. Orfeo. Buongiorno. Sì. Vediamo se ci siamo. Io volevo intervenire per dire che se si fa un figlio, si deve fare un figlio perché c'è amore tra le persone che lo vogliono fare. Ma oggi tutti dalla parrocchia siete usciti. Esistono. Sì, ma no, scusami Orfeo. Io non voglio, però se no mi dicono, aspetti, leggo quello che dici, che io mantengo una posizione in maniera indefessa e non accetto il dialogo. Capisco quello che dici, tu dici che il concepimento deve essere un atto consapevole e mirato a quello. D'accordo, è un modo di vedere, ma non è condiviso da tutto il mondo. Tu dici che per te è così, ammetterai che per altri può nascergli un figlio semplicemente perché è una bella notte di luna piena e si sono piaciuti. Può succedere questo, no? Sì, ma se... il figlio non è desiderato, se non c'è la volontà di fare una famiglia, perché non usare i metodi anticoncezionali? Tesoro, ma perché capita che scopando ogni tanto ci scappa che qualche volta ti distrai? Cioè io ho una vita che scopo e non ho mai messo incinta nessuna, se non voluto. Vabbè, ma adesso... Scusi. Un po' È un linguaggio giovanile scanzonato che piace molto a questa fascia di ascolto, quindi lo usiamo volentieri. A parte che non sono più giovane, ma comunque è lo stesso. Sì, però voglio dirle, scusi Orfeo, va bene... Ho capito, siete bravi, siete encomiabili, andrete in paradiso. Io oggi voglio parlare con quelli che andranno magari in purgatorio, perché non hanno questa volontà così precisa di fare famiglia. Gianna Schelotto, buongiorno. Buongiorno. Gianna Schelotto, psicoterapeuta, autrice del romanzo Chiama non sa, Rizzoli. Mi hanno chiesto, Ma cosa non sa? Io ho detto, siccome amo, non lo so, non so rispondere. Gianna Scalotto, nella sua lunga carriera di osservazione e ascolto di persone che portano a lei problemi di relazione, problemi di cuore, ha scritto un romanzo sotto forma di romanzo, perché naturalmente dietro c'è una realtà che lei ben conosce, che è la storia proprio di due trombamici. Vediamo se riesce a portarci sul territorio su cui noi vogliamo oggi convogliare il nostro pubblico, quando il trombamico diventa un'alternativa a tutte quelle belle testimonianze che ci fanno i nostri ascoltatori, dicendo che loro sono bravi, sono sposati, concepiscono soltanto quando appare un angelo in cielo e gli dice tu partorirai e via dicendo. Vediamo se riesce a farcelo capire. Beh sì, perché esistono delle realtà, voglio dire, ci sono persone che, siccome negli anni passati ci siamo battuti tanto per la libertà sessuale ha delle conseguenze. È vero che esistono i contraccettivi, però è anche vero che esistono dei ragazzi un po' scriteriati, i quali decidono in una sera appunto di follia, oppure per un di particolare tristezza eccetera eccetera, decidono di stare insieme anche sessualmente. Non sempre c'è la cartucciera piena pronta, può succedere un momento appunto, di distrazione appunto, può capitare, poi può capitare anche che in quel momento non hai voglia di pensare alle conseguenze, voglio dire, ci sono tanti modi, sta di fatto che esiste questa realtà, che i giovani spesso, senza avere un progetto di vita in comune, senza essere innamorati, senza avere grandi prospettive per il futuro insieme, decidono di far l'amore una sera e poi accade anche che ci sia una gravidanza. Quindi Gianna, per definire, noi parliamo oggi di alcune coppie che stavano insieme magari con l'intento di essere soltanto trombamici, gente che si frequenta, però gli capita di avere un figlio. Correggimi se sbaglio, oggi un figlio ci si pensa un pochino più prima di rimandarlo al mittente. Perché? Perché ci si rende conto che le persone della tua generazione magari vanno in giro per il mondo per fare un figlio, si inventano delle cose astruse, quindi dici ma in fondo c'ho qualcosa che magari fa un paio d'anni mi venderei l'anima per avere, quindi me lo tengo. È questa diciamo, la descrizione del fatto di cui parliamo oggi? Sì, è anche questa, perché nel momento in cui naturalmente nella coppia del mio romanzo, quando si accorgono della gravidanza, il primo pensiero è quello di abortire. Lei va in ospedale e scappa, perché appunto fa tutta una serie di riflessioni come quelle che tu hai appena fatto, cioè e se poi questo bambino per me in questo momento è importante, non riesco a... Quanti anni ha lei? Quanti anni ha la tua lei? Lei ne ha 32. Quindi non è più una bambina. Non è una bambina e quindi si rende conto che più o meno inconsciamente che questa è un'occasione che non può perdere. Però c'è la prospettiva, come voglio dire, tradizionale, ai tempi, negli anni 50 e 60, se capitava un incidente di questo tipo, i due erano costretti a sposarsi. E cosa accadeva? E cosa accadeva quando si sposavano? Accadeva che si costruivano matrimoni di straordinaria infelicità, perché si erano sposati per forza, perché avevano dovuto interrompere tutti i progetti di studio, di lavoro che avevano, perché avevano, come dire, sono stati costretti, allora questo bambino diventava una forma di trappola e di costrizione. Invece i due ragazzi del mio romanzo, come accade abbastanza diffusamente, cosa decidono? Che il bambino se lo tengono, però loro non rinunciano ai loro progetti individuali, ognuno vive per suo conto, ognuno vive nella sua casa, questo sconvolge naturalmente la famiglia intorno a loro, perché la famiglia è una famiglia borghese tradizionale che rimane sbalordita del fatto che la notte in cui nasce il bambino, la madre di lui dice alla ragazza va bene, faremo una grande festa, un battesimo, un matrimonio, e la ragazza gli risponde ma guardi che noi non ci vogliamo sposare, noi non siamo nemmeno fidanzati. Ma ferma un attimo Gianna, dobbiamo dare la linea alla borsa, però ti sottopongo due messaggi che arrivano da parte del pubblico, quindi io voglio rispettare comunque il pubblico. Lei Nicoletti pare aver avuto dei traumi esistenziali grossi, può essere, chi non ne ha avuti alzi la mano. Non sarà colpa sua, ma perché vuole impregnare il prossimo? Solo perché qualcuno le dà voce, lei pensa di essere lei e gli altri non sono un cazzo. Ho semplicemente detto a due persone che hanno chiamato facendo una professione di regolarità della loro vita matrimoniale che oggi non era questo il tema, non parlavo di questo, mica ho detto che devono morire. Poi altra persona, che schifezza ragionare come te Nicoletti, se un figlio ci scappa non ha mai pensato a quali problemi avrà questo nuovo individuo, la vita va semplificata, non complicata. Ecco, non mi dite a me quanto possa essere complicato gestire un figlio. Ci sentiamo tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. vi presenta... Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sempre. Un'ora e mezza, un'ora 90 e mezza. Minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. Si sente. E a tutti convocati weekend, ci sono anch'io, sono Giovanni Capuano, vi aspetto ogni domenica alle 17. Melog, cronache meridiane. Il tromba amico, ma che modo cinico di parlare, ma che roba, mamma mia, io non so, l'amore, il coinvolgimento amoroso non esiste, ma che roba. E sarà perché sono nata nella prima metà del 1941, ti è? Tromba amico, ma che modo di parlare è? Ma queste donne come sono? Non so, là, l'amore, il sentimento e quella roba lì, tutto insieme, non capisco più niente. Ahimè signora, il tempo passa, dobbiamo adeguarci a quelle che sono le percezioni contemporanee, anche dell'amore, anche delle relazioni, anche dell'affetto. È cambiato. Oggi tromba amico, però rispetto a questa signora che la vede ancora con una lettura un po' antiquata, è qualcos'altro. È l'anticamera al nuovo assemblaggio tra esseri umani. Attraverso la tromba amicizia si diventa una famiglia, non ci se ne accorge. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a voi. Il mio è proprio un classico caso di tromba amicizia. Purtroppo poi è andata a finire male perché la mia carissima amica ha iniziato a avere delle esigenze particolari in seguito alla perdita di una bambina con il suo compagno. E mi ha chiesto di avere con me un bambino, io non me la sono sentita perché stavo all'epoca con un'altra persona. E quindi ci ha portato anche alla rottura della nostra amicizia. Però Alessandro, lei mi sta facendo un quadro molto interessante. Prima eravate tromba amici a tutti gli effetti, quindi oggi si direbbe, cioè ieri sarebbe detto amanti. Lei aveva un compagno, lei aveva una compagna, però vi piacevate, ogni tanto vi incontravate. Esatto, l'amante però secondo me già ha un'altra connotazione, cioè di stabilità, di rapporto speciale e parallelo. Sì, sembra quasi l'amante oggi è una bigamia, diciamo, è intesa come bigamia quasi. Esatto. L'amicizia, la tromba amicizia è proprio è spettacolare perché ha degli aspetti che andrebbero valorizzati, a volte anche funzionalmente positivi per la coppia. Perché nel momento in cui c'è una piccola crisi, l'amante potrebbe determinare la rottura. La tromba amica, invece, ti fa percepire anche gli aspetti positivi che ci sono all'interno, certo, della coppia. Nessun trombamico vorrebbe che gli si presenta con le valigie in mano il trombamico, dice ho lasciato la famiglia, adesso viviamo, esatto, assieme. Esatto. Sì, però esatto. La cosa che mi interessa nasce proprio sul romanzo della Schelotto, e per questo è importante. La vostra trombamicizia è finita quando la sua trombamica in realtà voleva da lei un figlio. Ha avuto un trauma, ha perso un figlio, dice voglio farlo con te. E lei è scappato via, non se l'è sentita. No, perché diciamo non erano, rientrava in quei nel suo progetto. Accordi, no? Non nel suo progetto, ma è logico, significava... Certo, diciamo che ci sono proprio degli accordi taciti, non scritti, mai detti, di rapporto confidenziale, sì, perché c'è amicizia, intimo perché c'è sesso, però c'è sempre anche lì un certo limite. Ecco, diciamo che la regola del trombamico sarebbe non fare mai qualcosa che all'altro potrebbe essere spiacevole, non dirglielo, non raccontarglielo, nasconderglielo. Però in realtà in quel momento lei ha rotto il patto, voleva in lei un generatore di figli e non era il suo caso. Agostino, buongiorno. Io ho avuto un problema quasi simile. Dopo 8 anni in cui sono stato con questa amica, appena separato, l'amica mi ha messo di fronte a una scelta, ha detto o stai con me o non ci vediamo più, e quindi è finito tutti e due i rapporti contemporaneamente. Quindi in quel caso non era semplicemente una tromba amica, ma era una... Ma no, una tromba amica perché era, come diceva... Sì, però si era messa col, prima, si era messa no, col numerello... Ma nessuno mai si voleva separare, sì, assolutamente. Sì, col numerello in mano in attesa, come si liberava un posto, si faceva avanti, e questa è la sintesi. Però non c'è mai stato il desiderio di far lasciare la famiglia, assolutamente, anzi il rispetto sacro per la famiglia. Quando non lo diceva che probabilmente era al di sopra delle sue aspettative. Una volta che era libero dice: come, ci sono io pronta in prima fila. È comprensibile questo. Sentiamo ancora Luca, poi voglio sentire Gianna Sclotto. Luca, dovrebbe chiamare gentilmente qualche signora, 800240024, se no, se telefonano soltanto maschietti e non mi si dia del compulsivo, sembra che la tromba amicizia è soltanto una deviazione maschile a senso unico e poter usufruire di donne senza doversi impegnare sentimentalmente. Invece mi piacerebbe capire se l'altra faccia della luna prova lo stesso tipo di leggerezza in questo rapporto o in realtà, come intuisco, ne vede soltanto l'anticamera di una nuova forma di vedere la coppia, vedere la famiglia. Luca, veloce. Ciao, allora io ho incontrato una tromba amica su Tinder, va bene. Lì vai solo a cercare tromba Tinder. Lo so, ma è un momento che mi è durato 5 anni. Vabbè, mica fa male. Ma assolutamente, anche lei devo dire che era una donna che cercava un tromba amico, quindi... Però è nato un amore, è nato. Ma diciamo di sì, però devo dire che anche lei, per ricongiungermi a quello che vi ho detto prima, era una donna che cercava una soddisfazione, una compagnia sessuale, diciamo, all'inizio. Vabbè, cercava. Proprio, no, molto spontaneamente. Questo, perlomeno a te faceva piacere pensare questo, che cercava soltanto un toro da monta, no. Quando in realtà... ho trovato me un grande toro da monta. Sì, figurati, boom, siamo arrivati. Però Luca, siamo realistici. Non esiste un desiderio maschile e femminile che possa durare. Quanti anni siete stati assieme? No, ma io ti dico, abbiamo avuto proprio una amicizia durata ben poco, perché alla fine è durata 3-4 mesi. Ci siamo resi conto tutte e due che, come dici te, alla fine... Ti stufi, chiaro, tu puoi fare anche le scintille e puoi anche camminare col treppiede, ma alla fine, dopo un po', credimi, stanca se non c'è qualcos'altro. Assolutamente, e ci siamo trovati, è una cosa... Alla fine va benissimo. Allora, Gianna Schelotto, ricordo Gianna Schelotto, ha scritto Chiama non sa, che è un romanzo... per la Rizzoli, dove sta definendo un modello di nuovo assemblaggio quasi familiare o post familiare che corrisponde molto alle telefonate dei nostri ascoltatori. Dammi un giudizio rispetto a quello che hai sentito, Gianna, intanto. Da una parte c'è, come dire, l'insidia della cosiddetta tromba amicizia è che uno dei due accetti di essere tromba amica perché non riesce ad essere altro. E quindi, come dire, la signora che a un certo punto, quando lui si è separato, ha chiesto di trasformare la tromba amicizia in un vero e proprio rapporto, e era proprio simbolica di certe aspettative. Qualche volta appunto ci si accontenta della tromba amicizia perché non si riesce ad avere un rapporto vero e proprio con la persona con la quale si sta. Però in linea di massima questo tipo di rapporto è tra persone che non vogliono vincoli, o almeno che credono di non volere vincoli. Poi quindi non ci si può prendere in giro, Gianna, nella coppia tromba amica non ci può essere uno che bara e dice sì, io voglio essere libero, quando in realtà non sogna altro di avere, non dico l'anello al dito, ma avere esclusività sulla persona. Questa è l'insidia che c'è sempre, perché appunto non è ben definito. Ci sono patti, c'era uno degli ascoltatori che diceva, aveva, quando lei mi ha chiesto di fare un figlio, ha rotto il patto, ed è vero, ci sono patti non scritti, patti non detti, però può accadere che poi ognuno si coltiva dentro di sé una speranza che non ha niente a che fare con i patti. Allora in questo tipo di rapporto accade che si rompe perché uno non accetta fino in fondo i patti, oppure può accadere che scocchi un sentimento, che loro si accorgano che al di là delle sporadiche avventure sessuali loro si sono legati e non possono più fare a meno l'uno dell'altro. Ma l'amore è proprio questo, esplode e mica lo controlli, non hai dominio sul sentimento, per fortuna. Allora fermiamoci soltanto un istante, ho chiamato le donne raccolta, il pubblico fedele, quello zoccolo duro, piccolissimo, ristretto che ancora mi segue, ha risposto, ho tre donne, Nicoletta, Laura e Giusi, alle quali prego di aspettare un istante che tra poco avranno facoltà di parola. Melog, cronache meridiane. Ho 800 24 0024. Quanto ci prendiamo in giro quando diciamo tromba amico, quando ci illudiamo che stiamo con una persona soltanto per puro sfogo sessuale, in realtà siamo già incamminati verso un nuovo modello di famiglia. In realtà prima o poi uno dei due richiederà esclusività, richiederà qualcosa in più, e quindi il tromba amico altro non è che l'anticamera alla nuova forma di famiglia, di matrimonio, chiamatela come volete. Si passa per il tromba amico e ci si trova improvvisamente a essere, come nel libro di Gianna Schelotto chiama, non sa, una coppia di persone, non più ragazzini, oltre 30 anni, che hanno un figlio, gestiscono un figlio. Ma come lo gestiscono? Ce lo dirà tra un istante Gianna Schelotto. Prima però chiamo le nostre tre ascoltatrici. Nicoletta, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo dire che sono una tromba amica, che mi sento anche un po' messalina, però, perché tanti anni che sono una tromba amica. Prima ho fatto l'amante. Ma sempre con lo stesso tromba amica? No, sennò è l'amante. Sennò è l'amante, no, no, cioè. Allora, io ho avuto l'amante per 8 anni e più i trombe amici. Insieme all'amante, insieme all'amante. Certo. E lui lo sapeva? Se lo immaginava, penso. Però non gliel'ha mai detto, non gliel'ha mai detto. Sì, quando poi ho voluto interrompere la storia, sì. Diciamo, l'amante a un certo punto era una sorta di marito che richiedeva fedeltà, quando lei si è stufata ha detto, guarda, tu pensavi io fossi una moglie fedele, in realtà per me eri una cosa più importante rispetto alla rosa dei trombamici. È finita. Certo. Dunque, lei Nicoletta mi è molto importante, molto utile in questo momento, che mi scrive un ascoltatore, i soliti bacchettoni, il trombamico non esiste, solo un opportunismo dell'uomo, la donna non l'ammetterà mai, Nicoletti. Lo ammette, è una trombamica? Io sono una tromba amica messalina, perché quando mi rendo conto che poi il tromba amico magari vorrebbe condividere qualcosa di più, lo lascio. Vabbè, una tromba amica megera non la vorrebbe nessuno, certo, ad essere messalina. Una tromba amica suora di clausura non la vorrebbe nessuno, va da sé che adesso un po' messalina, se non si chiamerebbe tromba amica, sarebbe compagna di preghiera, compagna di viaggio, compagna di lettura. E quello ce filosofica. L'abbiamo nel quotidiano, certo. Abbiamo il marito, la famiglia. Brava Nicoletta. E quello che c'è di bello è che col tromba amico hai piena libertà di essere te stessa sessualmente. Se è vero un trombamico, però se è uno che in realtà sotto un po' è innamorato, non puoi farlo, è vero. La scelta del trombamico è questa. È delicata. Sì, certo. Se te sei sposata, devi trovare uno sposato, almeno equilibrato. Sì, sarebbe la cosa migliore, onestamente. Quindi il sabato telefono spento, la domenica anche, e poi deve essere una persona che non ha problemi economici, perché il trombamico ti deve portare alla spa. Certo. Oppure ti deve portare in un ristorante dove te magari non vai con la famiglia. Certo, deve mantenerti, sennò che discorso è? Certo, minimamente. Certo. Però senti una cosa, qui, il tromba amico single invece con chi è meglio che vada? Con altri tromba amici single, che è difficile trovarli. Sì, con una donna single, perché così poi non è più. Ma il tromba amico single non esiste. In effetti è vero, il tromba amico single non è. Questa è una grande verità. Giusy, buongiorno. Buongiorno. Esiste sempre meno il trombatore single. Il suo programma, io l'ascolto tantissime volte e mi piace tanto seguirla. Però lei penso sia una fascia di pubblico ormai in età molto avanzata, perché se le piace la trasmissione non può essere giovane, così mi dicono, È così? Cosa? No, perché mi dicono che ci sono soltanto vecchi che mi ascoltano. Ma che ora io non sono certo una ventenne, ma comunque non sono vecchia. Ancora gliela molla. Non posso parlare, ma ci vuole gente intelligente per seguire certi programmi. L'intelligenza non è un valore. Allora, Giusy, vada avanti. Allora, niente, io volevo soltanto dire questo. A me mi è stato proposto dopo un accurato corteggiamento, per cui anche questa cosa non va bene. Voglio dire, prima c'è un corteggiamento, poi quando si arriva al dunque si tira fuori il discorso tromba amico. È comunque una cosa squallidissima, perché ci si coinvolge sessualmente. Come si fa? Ma mi spieghi, Giusy, però è importante i tempi. Corteggiamento. Intima d'azione. Messaggi giornalieri. No, aspetti, Giusy, siete arrivati, diciamo, all'intima d'azione, oppure era diciamo subordinato? Io non ho accettato. Però scusi, ma questo corteggiatore è anche abbastanza cretino. Poteva prima godere delle sue grazie, poi dirgli guarda, per me è soltanto. Certo, infatti l'ha fatto. Ah, quindi ha goduto di lei. Chiaro, chiaro. Ha ottenuto il bene prezioso della sua purezza. Certo, certo. Vabbè, è semplicemente uno un po' furbacchione, l'ha fatta innamorare, l'ha illusa. Per innamorare, no, però vabbè, per la un vabbè, minimo, l'ha coinvolta, sì. E dopodiché, come dopodiché, fanno tutti gli ottenuta quella cosa, ottenuta quella cosa, se n'è andata. Fermala, fermala. Gianna Schelotto, dici più o meno i parallelismi o i contrasti con la tua storia rispetto a quelle che hai sentito. Hai visto? Il quadro poi è abbastanza completo. Tromba amica convinta, tromba amica reticente, e tromba amica illusa e ingannata. C'è di tutto. Sì, e poi ci sono proprio i tromba amici casuali, perché i due protagonisti del mio romanzo sono due persone che frequentano un corso di sommelier e lo frequentano perché ognuno dei due ha alle spalle una storia finita male. Allora, un po' perché sono tristi e soli, un po' perché in questi magari bevevano qualche bicchiere di troppo, decidono di stare insieme sessualmente. E il fatto che poi lei rimanga incinta è un fulmine a ciel sereno, che però loro risolvono in questo modo. Ciascuno va avanti con la sua vita, ciascuno va avanti con la sua storia personale, ma il bambino c'è, e il bambino rappresenta un simbolo di amore, di affetto, di sentimento, che è più forte del vincolo matrimoniale, proprio perché è libero, proprio perché loro decidono liberamente di tenere il bambino, di occuparsene, e partono per questa nuova avventura, che naturalmente è difficile, perché è molto, c'era prima un ascoltatore che diceva, che parlava di semplificazioni. È proprio il matrimonio obbligato che è una pericolosa semplificazione. Allora, avete fatto l'amore, avete avuto un figlio, quindi sposatevi. E regolarizzate tutto, certo. È una semplificazione molto pericolosa, proprio perché già era pericolosa negli anni 50-60, ma è molto più pericolosa oggi, perché queste due persone sono più libere mentalmente, e l'idea di costringersi in un vincolo matrimoniale solo perché c'è il bambino è qualcosa. Non ci che... stanno più. Senti, Gianna, Laura, è un minuto. Tu dici che sei esattamente una situazione del laboratorio come nel libro. Perché? Dimmelo in un minuto. No, io dico che questa situazione del libro che leggerò mi sembra un po' da laboratorio, sì. Nel senso che mi sembra che sia appunto possibile in una condizione in cui ci sono delle famiglie borghesi che possono occuparsi dei figli e i figli possono continuare a studiare, fare le loro cose. Tu dici cose, se c'è bisogno. Eccetera. Allora, poi questo cosa comporta? Non solo che è una situazione particolarissima, benché un esperimento interessante, ma comporta che i figli, restando diciamo legati alla possibilità di mantenimento dei genitori, a questo punto non riescono a diventare genitori dei loro figli, ma magari possono, come dire, portare il nuovo bambino, sì, però in famiglia. Laura, hai ragione, però oggi soprattutto siamo in terra di immigrazione, vediamo intorno a noi persone con pochissime risorse rispetto a quelle che abbiamo noi, che hanno caterve di figli. Non stiamo a sopravvalutare anche il fatto, Dio mio, se non c'è certe condizioni non c'è il figlio. Questo è Adinolfi che l'insegna, i figli sopravvivono anche se buttati nei cassonetti, quindi non è esattamente questo caso. Ci sentiamo, grazie Gianna Schelotto, grazie agli ascoltatori e agli ascoltatrici, a tutti quelli che hanno avuto la bontà di seguirci. A tra poco.